Parte terza, capitolo quinto. È tornata la primavera. Nella primavera quasi ritornata incontro soltanto angoscia. I fiori del prugno turbinano vorticosi, petali di neve cadono su di me. L'anitra selvatica solca il cielo, presagio di una speranza che non si è avverata. Le strade lontane guidano il mio sogno all'eterna ricerca di te. Oh, sorridi all'amabile dolore, fresco come l'erba di primavera. Ovunque vadano i miei passi, i giovani campi sono ancora verdi. Febbraio 1950. Tu e le tue poesie, Soyen, mi sorrise Nora. Si gela. Il capodanno cinese deve essere freddo, dato che cade il primo giorno di primavera, ma oggi trema persino l'erba. Questo è l'anno della tigre nell'antico calendario, dichiarò Robert. Sarà un'annata cattiva, divoratrice di uomini. Avremo la guerra quest'anno. Mrs. Chang è tornata a Formosa, disse Nora. La sua lunga permanenza a Hong Kong cominciava a insospettire il Kuomintang. Hong Kong è un punto d'incontro per tutti, di tutti i colori. Hanno dubitato che stesse negoziando un voltafaccia di famiglia con i rossi di qui e hanno minacciato di fucilarle il marito. Così si è precipitata a tornare indietro. Ci saranno molte epurazioni in Cina quest'anno, disse Robert, pessimista. Aspettate e vedrete. Questa benevolenza generale non può durare. Non è possibile affermare una rivoluzione che deve sconvolgere il mondo senza molto spargimento di sangue. Comunque Aileen è ormai tranquillamente sposata al suo americano, riprese Nora, che seguiva il filo dei suoi pensieri. Mrs. Chang dice di essere stata molto contrariata dalla notizia, perché si tratta di uno straniero, ma nel suo intimo ne è molto soddisfatta. Ormai Aileen è fuori dalla sua tutela e non dovrà tribulare per ottenere un passaporto. Stanno diventando terribilmente cari. L'America non è che una tigre di carta, continuò Robert, che le tigri sembravano ossessionare. È quello che dice il governo di Pechino e temo sia vero. Gli americani hanno una vita troppo comoda e troppo denaro. Crollò il capo. Gli affari andavano male. Gli americani hanno la bomba atomica. E potranno sempre radere al suolo la Russia, disse Nora. Ce l'ha anche la Russia la bomba atomica, ribatté Robert. Era il terzo giorno del nuovo anno cinese, circa la fine di febbraio, secondo il calendario europeo. Secondo l'usanza cinese, la giornata doveva essere dedicata alle visite agli amici e Mei ed io ci trovavamo appunto dagli Hang per augurare loro un felice anno nuovo. Il capodanno cinese è la festività più rumorosa di Hong Kong. Per settimane prima, i negozi aperti fino a mezzanotte e anche più tardi sono affollati e rigurgitanti di cibo. Arance, banane, lichees, pere, mele e cotogne, uva, mandarini e persimmone, ananas e manghi. Cesti in cui rose di carta abbracciano bottiglie di cognac, di whisky, di gin, di vermouth, di porto, di sherry e di Cointreau, di Camel e di Benedictine. Vini e liquori da ogni parte del mondo. Vi sono enormi e vistose scatole di cioccolatini svizzeri, latte, biscotti dall'Inghilterra, cartocci di caramelle e di specialità americane, panciuti barattoli di buccia d'arancia candita, cubetti di zenzero, noci, mandorle e noci di cocco, polli in scatola californiani e anatre cinesi disseccate e appiattite come cialde, con la testa dal lungo becco che spunta dall'involucro di vimini. Interi maialetti lattonzoli, deliziosamente arrostiti, mazzi di salsicce bianche e rosse appesi al soffitto dei negozi. E il rumoroso vocio proprio ai cantonesi, il perpetuo ticchettio degli zoccoli sui marciapiedi di pietra, il fragore delle radio aperte al massimo giorno e notte in 5.000 negozi distanti 2 metri l'uno dall'altro, i clacson delle automobili che si fanno largo attraverso le strade affollate, le case sgargianti di festoni rossi, appesi alle porte e ai muri, i bastoncini d'incenso che fumano sui gradini e sotto i tavoli per onorare gli dèi della terra e del focolare, I bambini allegri nei loro nuovi abitini multicolori, il delizioso profumo dell'Enchiantos campanula dell'anno nuovo che ondeggia negli alti vasi, e file su file di narcisi e di fiori di prugno e di ciliegio alla fiera dei fiori a Wansai. Non bisogna dimenticare i fuochi artificiali. Minaccia all'udito e alla salute, al sonno e al cervello. La legge limita il loro cannoneggiamento a sole 48 ore, durante le quali gli inglesi si tappano le orecchie con ovatta, ingoiano sonniferi ed evitano deliberatamente le strade. Con un'insistenza che strappa l'anima e polverizza gli orecchi, giorno e notte i fuochi artificiali fischiano, urlano, scoppiano, solcano il cielo e si spengono con un tonfo molle. Si alzano da dietro e da sotto le automobili, sibilano dai balconi e dalle finestre, scoppiettano ai crocicchi, detonano da sotto barattoli vuoti. Sospesi dal tetto dei più famosi ristoranti a tre piani e giungendo quasi a toccare la strada, scoppiano senza posa per più di mezz'ora al modesto costo di $100 ogni 6 minuti. Le strade sono fiumi di carta rossa e di cenere. Tutto odora di porchetta allo spiedo e di polvere da sparo. Con folle gioia udiamo svanire tanto denaro in fuoco e rumore, poiché è così che una razza frugale esplode in frenetiche stravaganze, in determinate occasioni rituali, ai funerali, alla nascita di un figlio maschio e a Capodanno. In confronto a tutto questo, il vocio di 8 bambini nella casa degli Hanger riva al mare costituiva un relativo silenzio. Sedevamo intorno al caminetto elettrico, chiacchierando e mangiando il tipico dolce di Capodanno a base di riso glutinoso. A proposito di anatre selvatiche, disse improvvisamente Nora, stamane è arrivata una lettera per te. Nei poemi cinesi le anatre selvatiche simboleggiano le lettere dell'amato. Istantaneamente il dolce che stavo mangiando mi si fermò in gola, rifiutandosi di continuare la sua strada. Non potevo né muovermi né parlare mentre Nora mi metteva in grembo una lettera scritta a macchina e coperta di francobolli indocinesi. Non è il caso di essere tanto sconvolta, Su Yen. Ricordi quel telegramma che ti arrivò? Rimanesti sdraiata sul letto per 2 ore, pancia in giù, rifiutandoti di aprirlo. Eppure ti portava buone notizie, no? Sì, Nora, sì, buone notizie. Era stato sulla spiaggia, sotto quella stessa casa, nel rovente luglio passato, che Mark mi aveva detto, sorridendomi e burlandosi di se stesso con quella mite e disperata incredulità che tanto incideva sulla sua vita. Quando smetterò di rosicchiarmi le unghie, vorrà dire che tu hai su di me un potere che nessun altro ha mai avuto. Non voglio avere alcun potere su di te. Udivo ancora la mia voce, roca col coraggio dell'ignoranza, proclamare la sua profonda fede nell'immensità di una parola che non comprendevo, una menzogna. E tuttavia la verità. Dottor Han, voi non amate il potere annacquato, vero? Mi aveva detto un giorno Mark ridendo. Il mio possesso era assoluto, anima. E immaginazione era l'affermazione della sua personalità. Che bisogno avevo di promesse? Perché avrei dovuto cercare di ottenere un potere su di lui? Apri la lettera, Su Yen, mi disse Nora. Non startene lì a sognare. Aprila, Mark ti ama e tu lo ami. Che cos'è l'amore, Nora? E sei proprio tu a chiedermelo. Com'è possibile, Su Yen? Non c'è cosa più bella del vostro amore. Quando tu e Mark siete insieme, irradiate splendore. Siete belli insieme, sempre tesi l'uno verso l'altra. A volte mi sembra che sia proprio a causa dell'amore che non posso averlo. Averlo per sempre, intendo. Non essere sciocca, esclamò Nora con irritazione. Non rinunciare a questa cosa preziosa che esiste fra voi per ragioni troppo grandi e nebulose. Su, viviamo in questo mondo e in questo mondo tu devi essere egoista per lui e non per i tuoi ideali. Non gettare via Mark. Su Yen è un uomo che vale molto. Nora, che cosa significa avere? E che cosa significa rinunciare? Oh, leggi la tua lettera, sognatrice, e smettila di essere taoista. Ma la lettera di Mark, talismano di vita, passaporto del mio destino, rimase chiusa finché non fui di ritorno alla casa di Conduit Street e sedetti, come quella prima volta, accanto alla poltroncina a righe. Soltanto allora, nella stanza vuota, col fantasma di Mark che veniva verso di me con un sorriso che assomigliava a un fiore, strappai la pesante busta e lessi. Oh, cuore umano, che danza su di una corda tesa fra la disperazione e l'estasi, sottile filo che unisce la terra instabile e brutale e l'immenso cielo selvaggio, tessuto di dolore e di gioia, di odio, di fede, di desiderio e di coraggio, di ingiustizia, di crudeltà, di tenerezza e d'amore. Cuore umano, signore della vita racchiusa entro il vasto orizzonte della creazione, viandante che cammina sul vuoto, seguendo il pericoloso avanzare dei suoi passi sul sottile filo dell'esistenza. Cuore umano, acrobata ostinato che esegue il suo esercizio dal nulla all'oblio, senza mai osare esitare, senza mai osare arrestarsi. Mia cara, scriveva Mark, questa lettera è per dirti che ti amo. Tutto il resto non contava, che non avremmo mai potuto sposarci perché era incatenato e non sarebbe mai riuscito a liberarsi, che non sarebbe andato a lavorare in Cina perché, nonostante il riconoscimento del nuovo governo, egli risultava politicamente sospetto. Non ci rimanevano che due alternative: fuggire per vivere insieme, forzando il destino con un gesto di sfida nel nome dell'amore, oppure lasciarci con gesto ugualmente istrionico nel nome della disperazione, ed entrambe le soluzioni avrebbero significato la sconfitta di noi stessi. Non voglio andare alla deriva, voglio che esista qualcuno a cui io possa essere fedele, senza di te, senza il pensiero di te. Tutto sembra senza significato. Prima di conoscerti cercavo disperatamente di fuggire al vuoto che c'era in me, spostandomi continuamente, cercando un'evasione. Ora non posso più tornare al vuoto. Attraverso le parole volutamente moderate, attraverso i deliziosi aneddoti dei suoi molti viaggi, la sua sofferenza giungeva fino a me non diminuita dalla spensieratezza della sua voluminosa lettera portante date diverse. Un diario su Yen. Soffocato da una veste di blande parole, il dolore che gli aveva sofferto pungeva ancora più del mio. Venendo a Hong Kong, intendevo fare quello che fanno molti dei miei colleghi quando giungono in un posto nuovo, scriveva Mark, e cioè prendermi una donna per la soddisfazione dei miei bisogni. Non sapevo che avrei trovato l'amore. È strano che a 36 anni io sia così profondamente innamorato, pago e convinto come non lo sono mai stato negli anni più turbolenti della gioventù. È strano che io abbia dovuto attendere tanto. Attraverso i grandi finestroni della sala vidi tre soldati ciechi dalle grigie uniformi lacere entrare nel giardino dal cancello spalancato, tastando il terreno con i loro bastoni. Che strano, pensai. Anche quello davanti che guida gli altri è cieco. E ora non ho più paura, scriveva ancora Mark. Non sono più preoccupato né infelice. Improvvisamente ho smesso di preoccuparmi, ho smesso di rosicchiarmi le unghie, ho smesso di avere paura degli aeroplani. Ci vado tanto spesso che se non dovessi avere un altro incidente, e questa volta sul serio, sarebbe contro la legge delle probabilità. Sono colmo di felicità e in me non c'è posto che per la felicità di amarti. Sono permeato e radioso della gratitudine che mi dà la continua consapevolezza di te. Dio è stato molto buono con me, permettendomi di amarti. Non esiste altro. Oh, non posso sopportarlo, mi dissi. Mi sento soffocare. Oh Dio, allontana da me questo calice. Tu sei la porta, la via alla comprensione, la luce all'estremità di un infinito corridoio buio, il centro tranquillo nel cuore di un ciclone. E sono tanto felice, anche se probabilmente non c'è speranza per noi. Non potrò mai tornare indietro. Non si può tornare indietro dalla vita. Rasoi nelle mie viscere, agonia fisica che mi soffocava e mi faceva torcere per la nausea, miscuglio di desiderio e di delizia, cieca ondata di avida gioia e di indicibile dolore, prolungata e pura fiamma di agonia bruciante. E la terra che conoscevo, l'intero carosello terreno di esaltazione e di miseria, di trionfo e di insuccesso, di gioia e di dolore, cadde in frantumi intorno a me, rotolando al pari di massi da una montagna. «Ne morirò», mi dissi. «Morirò di queste semplici e banali parole d'amore. Pietà, pietà, abbiate pietà di noi!» I soldati ciechi si erano fermati nel giardino. Le loro uniformi grigie erano sudice e l'imbottitura spuntava dalle cuciture. «Ah, San!» Il vecchio servo che era con Fiona e James da 20 anni li cacciava come fanno i contadini con le galline. «Via, via! Questa è la casa di un bianco! Via, andate via! Abbiate pietà, siamo affamati!» I soldati erano reduci degli eserciti sconfitti del nord che avevano cercato scampo a Hong Kong e non comprendevano il dialetto cantonese di Ah San, che a sua volta non poteva capirli. Alzarono i loro volti ciechi verso il cielo freddo e immenso e ripresero il loro ritornello. «Pietà, pietà, abbiate pietà di noi!» E così continuarono a lungo. Ah San, facendo gesti impotenti, non osando toccarli, difendendo la proprietà del suo padrone. E i soldati, immobili sul sentiero, allungando il bastone e la mano e ripetendo sempre la loro terribile cantilena. «Morirò! Morirò!» Sudavo e rabbrividivo mentre la terra spietata si allontanava da me. Spogliata e percossa, non sapevo più quello che avevo saputo. Non amavo più quello che avevo amato. Squarciata nel momento dell'estasi, distrutta nell'istante del possesso completo, avendo perduto tutto quello che era realtà. «Oh cielo!» mormorai. «Abbi misericordia di noi!» Eccola, la misericordia. Attraverso la porta fin nel giardino e su, su, per la magica montagna lucente, su per la montagna che ognuno di noi deve scalare un giorno o l'altro nella gloria e nello splendore, se non vuole restare a cercare in eterno senza trovare mai. Oh esultante immensità di quella cosa senza nome che esiste da principio, chiamatela come volete. Dio, cielo, Tao, o estasi, cosa che dà vita al cielo e alla terra, che ascende oltre la più lontana stella e non è alta, che canta al di sotto delle sorgenti della morte e non è profonda, che è senza tempo e riempie lo spazio e il vuoto fra le stelle irrequiete, che è nella formica e nella tegola rotta, nel concime, nella polvere della polvere, incommensurabile vuoto, nudo e familiare, parola sfuggente e mai pronunciata, immensa desolazione e sopraffacente felicità. Vissi un istante di disperata e divorante fiamma che mi lasciò spoglia di tutto quello che avevo conosciuto, colpita in tutto quello che avevo amato e con l'inesprimibile convinzione di aver scalato la mia montagna per la prima e l'ultima volta, poiché attimi come quello si vivono una volta sola. Abbiate misericordia! Compiutosi il miracolo, ero di nuovo lontana dalla montagna, dalla sua vetta radiosa, ansimante e spezzata, stordita e tremante, ero ritornata a udire i soldati ciechi, trionfanti nella loro cecità, che alzavano la voce con intollerante ostinazione. «Pietà, misericordia, siamo affamati!» E così, Finalmente vidi e trovai, e trovando fui perduta. Perduta a trovare per sempre, a non perdere mai completamente. E finalmente seppi che cosa fosse l'amore nella sua immensità e compresi come il divino avesse fatto della nostra passione forte quanto la morte, uno strumento per darci reciprocamente la vita. E la vita non ha fine. Non c'era fine come nelle fiabe in cui gli innamorati vivono felici per sempre, poiché ora la normalità era irreale e incostante e avendola trascesa non potevamo tornare indietro. Non si può tornare indietro dalla vita. Piansi, dolente che la normalità non fosse per noi. Il reciproco conforto di due cuori, la costante protezione che alla solitudine umana dona l'amore umano. Ahimè, non poteva essere. Piansi per me stessa e per Mark, poiché nell'intollerabile attimo, con la cosa senza nome, avevo infine compreso che Mark non mi amava, che non amava me, quale io mi conoscevo. Egli amava la fiamma appassionata, l'estasi del cuore, l'eterna ricerca. Il suo sguardo era fisso sulla montagna, e sebbene le parole fossero scritte a me, il canto era per la visione che tutto trascendeva. Tutti gli uomini sono fatti così, e alcuni più di altri, tutti, tutto il mondo era affamato e assetato di qualcosa di più del solo pane. In Cina, nella piccola città fulgida di sole e di esaltazione, avevo visto che gli uomini chiedono a gran voce il pane ma muoiono per qualcos'altro. Li avevo visti rinnegare la loro stessa visione e alla fine combattere per la realizzazione di sogni impossibili. Troppo semplice era la spiegazione secondo la quale gli esseri umani, una volta soddisfatte le esigenze del corpo, dovrebbero sbocciare fino a completarsi nella loro umanità. Non era vera nemmeno in Cina, dove la fame è tanto normale, poiché la rivoluzione non era stata fatta dai poveri e dai reietti. Il suo amore e la sua collera, la sua esaltazione e il suo eroismo erano stati alimentati dagli stessi privilegiati. La rivoluzione non aveva avuto inizio da un pensiero nella mente dei non abbienti, ma dal vivo pungolo della coscienza di pochi abbienti, bersaglio della vita e centro del cuore. Immagine di un'individualità immortale, scagliante la passione, il potere e la forza degli esseri umani vivi in una fiammante certezza, la certezza della vita che rende felici di morire. E così l'essere umano avrebbe sempre trasceso se stesso, pur negandolo, sempre desideroso di credere che la sua verità fosse la sola verità, la sua libertà, la sola libertà. Nel suo profondo bisogno di essere assoluto e di credere nel divino, dalla sua parte in ogni impresa della sua esistenza. E quando non c'era più nulla, oltre alla semplice occupazione di vivere, quando la vita e la morte non avevano più significato, quando l'amore aveva inizio e fine col bisogno della creatura mortale, allora la vita diventava una morte vivente, spoglia di ogni intento, priva di ogni estasi, vuota e vacante, senza gloria né splendore. Così era del nostro amore. Per un istante, per alcuni mesi, per alcuni anni, forse per tutto il resto della sua vita, quello che Mark cercava era personificato in me, una visione, un'illusione. In questo stato d'animo, terrorizzata ed esultante, rinunciai alla vita di Mark Elliott, al suo spirito vitale, a lui che si credeva completamente mio, affidandolo in mani migliori, poiché egli sarebbe cresciuto e un giorno le limitazioni umane proprie a ognuno di noi e che ognuno di noi impone all'altro l'avrebbero urtato. Allora mi avrebbe visto qual ero fuori dal suo sogno, una conchiglia vuota, e sarebbe stato triste. Così seppi finalmente che amavo Mark. E ciò mi bastava. Forse avremmo continuato, insieme o divisi, non importava, e la parola amore sarebbe stata tetto sul nostro capo, acqua per la nostra sete e cibo per la nostra fame, consapevolezza nel nostro sangue, parte di tutti i nostri pensieri e di tutte le nostre azioni, tocco di ogni bellezza e di ogni miseria, gloria e splendore da bastarci per l'intera vita. Scesi dalla montagna, ansimante e spezzata, sapendo quello che non avevo saputo, non sembrando amare quello che amavo. Scesi dalla montagna per vivere, perché la vita è dolce, e per commettere molti errori, per possedere e per esigere, per dividere e intrigare. Ma sempre avrei ricordato la montagna. Scesi nella vita per continuare ancora un poco con Mark, per vedere, crescere e vivere la cosa meravigliosa che era tra noi, piena di gioia e di tenerezza, anche se senza speranza nel tempo, anche se senza speranza nello spazio di questo mondo, già rinunciatari e quindi parte l'uno dell'altra nel solo modo possibile. Abbiate pietà, pietà, misericordia! I soldati ciechi erano ancora nel giardino, il viso rivolto all'ampio cielo, i bastoni tesi in avanti. E Ah-San, esausto da tanta insistenza, gettava loro alcune monete, brontolando fra sé. «Oh, Su Yen!» esclamò Fiona. «Non sapevo che tu fossi qua, al buio! Perché non accendi la luce? Hai già preso il tè?» Fiona era di ritorno da una passeggiata sulle colline coi cani, e Tetti Bogle, Lolo, Nico, che prese subito a mordicchiare il tappeto persiano e venne cacciato fuori, e Dainty, tanto bella e affettuosa che aveva dato il suo cuore a Fiona e a James ed era follemente gelosa di Lolo. «Vieni a sederti vicino al fuoco», mi disse Fiona. «Ti sei gelata in quell'angolino. Hai passato una bella giornata?» «Bellissima, sì. May si è divertita molto». «Ti senti bene, Su Yen?» «Ho ricevuto una lettera di Mark, Fiona». «Oh!» Fiona beve un sorso di tè. «E come sta?» «Benissimo!» Stringevo in mano la sua lettera, scrigno di bellezza, tesoro prezioso dopo il lungo e aspro viaggio, dopo la strada amara, dopo il cammino tormentato dalla fame e dalla sete e dalla desolazione della notte. Trovai un brano da leggere a Fiona. Bao Dai mi ha concesso un'udienza. Ero stato pregato di non fargli domande di carattere politico, militare ed economico, cosa che naturalmente limitò alquanto il campo di conversazione. Per la prima metà dell'intervista parlammo di caccia, e in particolare della chasse au tigre, e il resto del tempo fu dedicato allo sport della vela. Sua maestà ha un notevole fascino personale. «Divertente», disse Fiona. «I corrispondenti esteri devono avere una vita molto interessante, con tutti i magnifici viaggi che fanno, però deve essere anche piuttosto faticoso». Fiona era la discrezione in persona, ma l'intera stanza sembrava urlare la domanda che ella evitava di porre. «Mark torna a Hong Kong, ma non sa ancora quando», dissi. «Oh, benissimo!» esclamò Fiona, evidentemente felice per me. «Invitalo a cena, Su Yen. James ed io saremmo lietissimi di rivederlo». «Lo farò, Fiona, grazie». Un pomeriggio stavo copiando a macchina una cartella particolarmente incomprensibile quando suonò il telefono. «Per il dottor Han», annunciò il fattorino. C'era Mark dall'altra parte del filo. «Su Yen, come stai?» «Benissimo». «Gli Hang mi hanno detto dove lavori. Posso venire subito? Muoio dalla voglia di rivederti». «Non adesso. Abito da James e Fiona Menton. Trovati là alle 7». La segretaria della sezione, una ragazza cinese che mi ricordava Maya per il suo fascino e la sua comprensione, mi chiese perché non mi prendessi un pomeriggio di vacanza. «Oh no», risposi, «no». E continuai a battere a macchina senza vedere le parole. Ma fu presto sera. Attendevo Mark in casa, nel mio abito di seta blu, E May aveva indossato il vestitino azzurro di velluto coi bottoni di perla che Ann Richards le aveva regalato. Le avevo spazzolato a lungo i capelli, fermandoli con due nastri. May era molto soddisfatta. Farò vedere a Mark il mio componimento cinese. Ho preso 90, disse togliendo il quaderno dal cassetto. Io misi un po' di rossetto sulle labbra mentre May mi guardava, compiaciuta. Sei proprio graziosa questa sera, osservò. È perché sei felice, lo so benissimo. Non mi piace vederti stanca e vecchia, ti voglio sempre giovane. Mia figlia ed io ci guardammo. Eravamo due donne che si comprendevano bene. Scendemmo in salotto. Fiona e James avevano invitato alcuni amici per l'aperitivo. Come sei bella, May, disse Fiona a mia figlia. May sorrise, contenta, mostrando le fossette. Anche tu stai piuttosto bene, rispose con aria di condiscendenza. Sedemmo tra le lampade, i fiori, i tappeti e i cani, nella stanza tanto intima e piacevole, riscaldata dal fuoco del caminetto. Il campanello d'ingresso trillò. Vado io, disse subito Fiona, dirigendosi verso la porta. Bentornato a Hong Kong, la udii dire poco dopo. Entrate! E Mark comparve sulla soglia. Più bello di quanto non lo ricordassi, e si fermò a parlare gentilmente con Fiona e con James. Poi mi parve che tutti attendessero che io dicessi qualcosa. Lo guardai in viso e improvvisamente fu come se fossimo soli nella stanza. Buon anno, dissi. Buon anno, Suyen, rispose Mark. Mi passò davanti senza guardarmi per salutare May, che gli fece vedere il suo componimento, poiché anche lei gli voleva bene. Presa da un senso di soffocamento, gli voltai la schiena e James venne in mio aiuto, stringendomi un po' col braccio e parlando del più e del meno. James, sempre comprensivo, sempre dimentico di se stesso nella sua grande bontà, mi parlò del tempo. Oggi fa più caldo, disse. Presto avremo la primavera, ma secondo il calendario cinese è già incominciata, vero? Sì, risposi. La primavera è tornata.